Tutto è come il lasciai. Volete dunque riaprire voi stessa o deggio? Fermate! Ascoltatevi un poco! Vi credete capace di mancare a voi? Come vi piace! Entro quel gabinetto chi vi è chiuso vedrò! Sì, lo vedrete! Ma uditemi tranquillo! Non è dunque, Susanna? No, ma invece un oggetto che ragioni sospettano di lasciar per questa sera una burla innocente e di farsi disponeva, e io vi giuro che l'onore lo vestì! Dunque, dite, l'ucciderò! Sì! Scellerati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro, onde m'avete il foglio.